Yoti rati jespaki Nyama mamondi motna umafili Magie margo pondo chunya tahero Odero magi Yeah, mama, mo di mo na umafili, magi.